Mix 24, la storia. Gaudet Mater Ecclesia. È stato un concilio che ha, diciamo, ha cambiato il modo di predicare il Vangelo, il modo di pregare, il modo di avere, di essere prete, di essere vescovo, di essere laico. Comprendere che la vita religiosa non era un atto privato, un'esperienza individuale, ma era un'esperienza ecclesiale, un'esperienza comunitaria, un'esperienza per il mondo. La più grande esperienza religiosa della mia vita. Una vera rivoluzione. Bentornati a Mix 24. Oggi parliamo del Concilio Vaticano II, uno degli eventi più rivoluzionari del XX secolo. In un momento in cui i grandi quesiti del mondo sembrano riaffacciarsi con sempre maggiore intensità, raccontare e analizzare il Vaticano II, ritornare a quelle ore, a quel dibattito tra autorevoli esponenti della cristianità, è certamente uno strumento utile per comprendere non solo il passato, ma anche il presente. Gaudet Mater Ecclesia, quod singulari divine providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit. È l'11 ottobre 1962. Con queste parole Papa Giovanni XXIII apre il solenne Concilio Vaticano II. La cerimonia solenne è seguita da milioni di persone nel mondo grazie alle riprese in diretta della televisione di Stato italiana. Tutti gli organi di stampa mandano a Roma i loro inviati. E sono ancora in molti testimoni che ci possono aiutare a ricordare quei giorni. Sentiamo innanzitutto Monsignor Loris Capovilla, allora segretario di Papa Giovanni XXIII. Quando è entrato in concilio ha detto: entriamo con la divina rivelazione, con la tradizione della Chiesa, con tutta la ricchezza della patrologia greca e latina, che è la nostra ricchezza straordinaria, culturale, ed entriamo con tutti i 20 concili precedenti, senza rinnegare nulla del passato, magari aggiornare. Aggiornare vuol dire leggere meglio. I padri conciliari sono 2381. Il più anziano è centenario. Il più giovane ha 34 anni. Per la prima volta la Chiesa si mostra nella sua universalità. L'Asia e l'Africa sono rappresentate non solo da missionari europei, ma anche da vescovi delle loro terre. Dai paesi comunisti europei arrivano alcuni vescovi polacchi, ungheresi e cecoslovacchi. Nessun padre conciliare dalla Corea e dal Vietnam del Nord. Sentiamo ancora il cardinale Joseph Zen, che viene dalla Cina. Dalla Cina nessuno ha potuto venire, no? Ma ci sono i vescovi a Taiwan che potevano venire, ci sono diversi vescovi espulsi dalla Cina che hanno potuto venire. Allora la Cina era totalmente chiusa, nel 62 era già tutto chiuso, no? Come si dice, la chiesa del silenzio, non ci si comunicava più. Nella gloria di San Pietro ha aperto il Concilio Ecumenico Vaticano II. Il corteo è lungo circa 4 chilometri. Tutte le campane di Roma suonano a festa quando Giovanni XXIII esce dal portone di bronzo. Il grande corteo avanza lentamente nella Basilica di San Pietro stracolma. In testa al corteo, lungo quasi 4 chilometri, ci sono i superiori degli ordini religiosi, gli abati generali, i prelati. E poi i vescovi, gli arcivescovi, i patriarchi, i cardinali. Ultimo, tra gli applausi della folla, entra sulla sedia gestatoria Papa Giovanni XXIII. Così lo storico Alberto Melloni. Papa Giovanni ha segnato la storia della Chiesa e la sua idea di fare un concilio è un criterio decisivo per comprendere il Vaticano II. Papa Giovanni voleva un concilio che non fosse un concilio che faceva condanne e che faceva dogmi. E in questo modo lo metteva su un binario nuovo, inedito, per la storia conciliare, che molto spesso ha visto questi assisi convocarsi davanti a grandi crisi. Ad the presens tempus quod attinet, Christi sponse placet, misericordia medicina a divere, possius quam severitatis arma suscipere.

soprattutto in Europa, ma non solo, è molto alto, vengono pubblicate corrispondenze, queste corrispondenze vengono raccolte, sono giornalisti, sono teologi che vengono scritturati dai giornali, oppure sono gli stessi padri conciliari a scrivere. Ogni paese ha i suoi inviati. È l'avvento della comunicazione, anche in campo religioso, raccontano il cardinal Roberto Tucci e il vaticanista Gianfranco Sviderkowski. L'avvenire da una parte, il mondo dall'altra, avevano degli ottimi commentatori ed erano a ruba tra i padri del concilio. Ogni gruppo linguistico aveva il cosiddetto centro di documentazione. C'aveva dei responsabili che informavano ogni giorno i giornalisti di quello che sarà detto in concilio, anche facendo dei nomi, e quello particolare, quello italiano, il relatore giorno per giorno era padre Roberto Tucci, allora direttore della Civiltà Cattolica. Quando andavo dicevo: oggi importante intervento è stato questo, gli davo la sintesi, se vi interessa, cioè sì, glielo leggevo anche tutto. Una gran parte dei lavori e dei contatti umani proseguono nelle riunioni che si tengono nelle case religiose, nei seminari nazionali, dove alloggiano i vescovi di tutto il mondo. Questo concilio informale per tutte le persone coinvolte è una grande esperienza culturale e rappresenta un grande contributo al Concilio Vaticano II. Così il Cardinal Tucci. Avevo invitato tutti i direttori delle riviste dei gesuiti in Europa a venire ad abitare la Civiltà Cattolica, e la sera dopo cena io gli dicevo tutto quello che avevo sentito in concilio la mattina, e loro mi dicevano quello che avevano sentito dai vescovi del loro paese. La navata centrale di San Pietro è stata trasformata in un'aula gigantesca destinata a ospitare le sessioni conciliari che si svolgeranno al mattino dopo la Santa Messa. La lingua ufficiale è il latino. Così racconta Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Il Concilio Vaticano II ha approntato la Chiesa Cattolica a vivere nella globalizzazione. Quindi comunicare il Vangelo, ma anche dialogare con gli altri, con le religioni non cristiane. E qui la grande creazione di Giovanni Paolo II nel 1986, che è Assisi. E poi il dialogo ecumenico. E poi il dialogo con i non credenti. Questa Chiesa cattolica si è attrezzata alla globalizzazione, perché la Chiesa è già in sé una globalizzazione. Ma il Concilio Vaticano II è segnato anche dalla morte di Papa Giovanni XXIII e dall'elezione di Papa Paolo VI, il Cardinal Montini, due pontefici diversi, uniti però da un filo logico e teologico che ha saputo dare slancio e innovazione alla storia e al futuro della Chiesa e della vita religiosa dei cattolici, sacerdoti, laici, uomini e donne. La salute del pontefice peggiora rapidamente. Il 10 e l'11 maggio 1963 il premio Balzan per la pace gli viene conferito solennemente al Quirinale. Due giorni dopo, a New York, viene consegnato al segretario delle Nazioni Unite una copia della sua enciclica Pacem in Terris. Anche il Cremlino per la prima volta pubblica la traduzione dell'enciclica in russo con la firma del Papa in cirillico. Giovanni XXIII in questa enciclica si rivolge non solo ai fedeli, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Riconosce il ruolo della donna, ribadisce il rifiuto della guerra come soluzione delle controversie internazionali, condanna la politica degli armamenti e stabilisce la centralità della pace nel magistero della Chiesa. Il Concilio Vaticano II è identificato come il Concilio della Pace. Così Andrea Riccardi, storico della Chiesa e fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Ma in quel momento di guerra fredda, quando si voleva uscire dalla guerra fredda, ecco, quella fu un'enciclica importante, fu un grande segno. E non dimentichiamoci poco prima la crisi di Cuba, in cui il mondo era andato vicino alla guerra nucleare. Con l'animo profondamente commosso diamo il seguente triste annunzio. Il Sommo Pontefice. La sera del 3 giugno 1963 muore il Santo Padre, dopo 4 anni e 7 mesi di pontificato. La figura di Giovanni XXIII entra nella storia legata al Concilio Vaticano II. Il 19 giugno 1963 80 cardinali entrano in conclave a concilio aperto. Nella tarda mattinata del 21 giugno 1963 viene eletto Papa l'arcivescovo di Milano Montini, che assume il nome di Paolo VI, che riafferma la volontà di proseguire il concilio, come testimonia il cardinale Paul Poupart. Qualcuno sognava che questo concilio era così pericoloso che era meglio chiuderlo. E invece Montini si è affermato chiaramente, e se posso dire, come non ero al conclave, posso parlarne, il conclave si è giocato su questo. Prima dichiarazione del neopapa Montini, appena eletto Paolo VI, concludere il Concilio Vaticano II sarà l'asse portante del mio pontificato. Un conclave dunque orientato a scegliere un successore che garantisca i lavori del Concilio. Un concilio, lo abbiamo detto, rivoluzionario, che rimette in questione alcuni assetti fondamentali con cui la comunità religiosa tutta insieme dovrà confrontarsi. Un concilio che ha saputo tenere presente esigenze e aspirazioni diverse sulla vita religiosa, sul pacifismo, sui temi sociali, sui temi culturali, ma anche, naturalmente, sulla dottrina, sulla liturgia, ovvero sulla messa. Le innovazioni portate dal Concilio Vaticano II ridisegnano la definizione della donna di fede e portano a riflettere sulla sua identità. La stessa clausura, che per secoli era stata l'unica forma possibile di vita religiosa per le donne, doveva essere modernizzata. E si offre così la possibilità di dimostrare le proprie capacità in campi ancora esclusi alle religiose, come la gestione delle scuole, degli ospedali. Le congregazioni rivalutano il dinamismo del cattolicesimo e le sue reali capacità di intervento nella società. Sentiamo a questo proposito la teologa Marcella Farina e il vaticanista Gianfranco Swiderkowski. Con il concilio si è aperto l'accesso delle donne nelle facoltà teologiche, dove certamente per i religiosi e per i sacerdoti era già un luogo abituale, perché per loro era un diritto studiare la teologia, mentre per noi donne, per noi religiose, era proprio un'opportunità unica, quindi ci siamo messe a studiare con tanto calore, con tanto entusiasmo. Le donne non parlarono allora in concilio, le donne, però c'erano delle donne che erano presenti, e anche da lì è cominciato quel processo di cambiamento che da un certo tipo di misoginia che c'era ancora nella Chiesa poi dopo ha portato a questo grande riconoscimento delle donne. Un riconoscimento che porta addirittura a nominare alcune uditrici al concilio, come puntualizzano Piero Doria dell'Archivio Segreto del Vaticano e la storica Lucetta Scaraffia. Tra di esse emerge sicuramente la figura dell'australiana Rosemary Goldie, la quale dal momento della nomina in poi partecipò a tutte le riunioni degli uditori, presentò numerosissime osservazioni scritte e partecipò a una delle sottocommissioni per la preparazione della Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Questo è nuovo nella storia della Chiesa, che non siano religiose, non siano sante, non siano mistiche, ma delle studiose. Ci sono state delle laiche che hanno influito sul concilio anche dall'esterno. Una di queste, la principale, Dorothy Day, questa anarchica americana convertita al cattolicesimo, che organizza durante il concilio una presenza di donne di tanti paesi e di tante religioni diverse per fare pressione sui padri conciliari affinché affrontino il tema della guerra, cioè della negazione alla guerra, per ottenere dalla Chiesa una posizione nettamente pacifista. Ma una grande innovazione arriva anche in campo liturgico. La messa, fino ad allora celebrata in latino, può essere ascoltata dai fedeli nella propria lingua d'origine. Il sacerdote, prima rivolto verso l'altare, durante tutta la cerimonia, adesso guarda l'assemblea. Bentornati a Mix 24 con la storia del Concilio Vaticano II. Una rivoluzione nella storia della Chiesa voluta da Giovanni XXIII e portata a compimento da Paolo VI. Il latino, lingua piena di fascino, di mistero, di simbolismo, era comprensibile a pochi,

gli uni per gli altri, sottolinea il cardinal Paul Poupard. Ma siamo arrivati all'epilogo. Con una liturgia solenne, Paolo VI conclude il Vaticano II. È l'8 dicembre 1965. Nei suoi 16 documenti è disegnata una chiesa più spirituale, più evangelica, più missionaria, più vicina agli uomini e ai loro problemi. Noi concludiamo quest'oggi il Concilio Ecumenico Vaticano II. Mai come in questa occasione la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, di comprendere, di servire, di evangelizzare la società circostante e di coglierla, quasi di rincorrerla, nel suo rapido e continuo mutamento. Gianni Gennari, teologo editorialista, ecco, secondo te qual è stata tra le tante innovazioni la più importante portata dal Concilio Vaticano II? Nelle intenzioni la stessa idea del Concilio, perché credo che questo sia il punto centrale. Cioè il fatto che ci sia stato. Ecco, Papa Giovanni, realizzando alcune lontane intuizioni di Pio XII, mise in atto un processo conciliare, cioè in qualche modo lui ha chiamato ad aiutarlo tutti i suoi fratelli vescovi, e questo è il discorso che lui ha fatto quella sera, la sera dell'inizio del concilio: la mia persona conta niente, cioè l'idea che chiedere aiuto ai fratelli vescovi e in qualche modo a tutta la Chiesa, sì, anche nella preghiera. Senti, ma è vero che alla fine Paolo VI ha avuto in qualche modo paura delle conclusioni del concilio e l'ha affrettato? No. Non credo che sia vero che gli abbia avuto paura. Innegabilmente, di fronte ad alcuni contrasti su alcuni temi all'interno del concilio, in cui si era accesa la discussione con molta polemica, in particolare famiglia, matrimonio, sessualità e collegialità, quindi anche il ruolo delle conferenze episcopali, eccetera, eccetera, Paolo VI in qualche modo ha capito che doveva mettere un freno, e quindi alcuni punti li ha avvocati completamente a sé. Quindi si sa benissimo che sul tema della sessualità, certo, per esempio Paolo VI ha detto basta con le discussioni, ci penso io, ci dovrò pensare, non ha detto ci penso io. No, lui, vabbè, intanto, certo, c'era una commissione internazionale già predisposta da Giovanni XXIII che stava lavorando, e poi ha reso conto al Papa, e il Papa poi ha tirato le conseguenze nel, certo, 68. Ecco, ma Benedetto XVI e Papa Francesco hanno la stessa linea di interpretazione del Concilio? Al fondo io credo di sì, cioè credo che sia Benedetto XVI che Papa Francesco ritengono che il Concilio non sia stato né traditore, come ritengono i lefebriani, né tradito, come da qualche parte con impazienza, per esempio Noi Siamo Chiesa ed altri, ritengono. Il Concilio è un seme che sta crescendo dentro la Chiesa, e quindi ritengo che fondamentalmente l'interpretazione sia quella di dare un seguito al Concilio, realizzarlo pienamente, perché è ancora su tanti punti davanti a noi. Questo è più evidente in Francesco, da questo punto di vista è fuori discussione che Francesco sta dando un'accelerata al movimento, però non credo che dal punto di vista fondamentale l'interpretazione del Concilio sia diversa da parte dei due. Gennari, ma volevo chiederti, revocando la scomunica ai lefebriani, non è che Benedetto XVI ha fatto un passo indietro? No, assolutamente. Si trattava, era una revoca della scomunica automatica per 4 vescovi, ma era in qualche modo condizionata all'accettazione del concilio, e quindi di fatto, come si sa, poi c'è stata la polemica sulla vicenda del vescovo Williamson. Sì, vabbè, quella è ancora un'altra cosa. Sì. Tra l'altro, personalmente sono stato interessato, perché la giornalista che gli fece l'intervista in cui lui negava la Shoah me la portò ancora 3 mesi prima del gennaio del 2009, mi pare che fosse, e me la fece vedere, e io dissi: questo, qui succede il finimondo. Avvisai anche la segreteria di Stato, capitò che mi misi a contatto con qualcuno che era molto vicino al segretario di Stato, dicendo: guardate, vi prego, in ginocchio, c'è un problema. C'è un problema e qualcuno ha fatto finta di niente, non è stato, e poi dopo tre mesi è successo quello che è successo. Ecco, però ritengo che Benedetto XVI abbia fino in fondo cercato di tendere la mano perché i lefebriani accettassero il concilio. Questa mano è stata respinta e quindi il fatto di aver tolto la scomunica personale ai quattro non significa assolutamente aver cambiato l'atteggiamento nei confronti delle lefebriani. Ecco, ma si può dire... Scusami un attimo, c'è una parola esplicita di padre Federico Lombardi che dice la situazione, la collocazione all'interno della Chiesa dei lefebriani non c'è, essi restano in una situazione di illegittimità, i loro atti sacramentali sono validi perché ma sono illegittimi, quindi loro sono fuori della comunione ecclesiale cattolica. Ecco, si può dire che con la nomina di Papa Francesco in qualche modo si è completamente realizzato il concilio? No. Dipende, sarebbe come pensare, sarebbe una specie di magia, una specie di apri di sesamo e per magia si apre. Con la nomina di Papa Francesco si è messo in moto un movimento che fa pensare ad una realizzazione più sollecita, più piena, ma ovviamente serviranno anni di tutto quello che è stato lo spirito profondo di dialogo, di apertura, di affetto verso il mondo, di stima. Già Paolo VI ha detto delle cose meravigliose su questo, la stima dell'umanità, l'affetto per l'umanità, la Chiesa maestra di umanità, la Chiesa non il palazzo, eccetera. No, certo. Quindi credo che stiamo facendo un cammino in piena realizzazione del concilio con Francesco. Ma allora, Gennari, chi parla della possibilità di un nuovo consiglio e di un nuovo concilio è sostanzialmente fuori dalla storia? No, non è fuori dalla storia, soltanto che per prima di cioè nella Chiesa, voglio dire, nella Chiesa, sì, ma nella Chiesa è qualcosa di cui si sente parlare oppure no? Ma a me, io sinceramente non serve un Vaticano Terzo, serve un movimento ecclesiale, papa, vescovi, preti, laici, fedeli, uomini e donne, soprattutto donne, questo è un tema su cui Papa Francesco insiste molto, realizzino pienamente, mettano in moto quelle che sono le grandi intuizioni, per esempio della Gaudium et Spes del Concilio, che è l'ultimo documento ufficiale del Concilio. Grazie. Prego. Grazie Gennari, grazie. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.